Bene, e voi siete qui all'ufficio turistico? O... Sì, l'ufficio turistico. Marianna, vuoi raccontarci qualcosa brevemente di te, dell'attività che fai qua? Allora, io sono da poco nell'ufficio turistico, quindi ho appena cominciato questa esperienza. Ok. Io non lavoro all'ufficio turistico, sono una spalla. Sostieni? Sostengo. Amica? Amica, okay, sì. Per sì. Amicizia. Io anche lavoro nell'ufficio turistico assieme alla mia collega Marianna. E niente, abbiamo iniziato questa nuova avventura assieme quest'anno, la nostra prima stagione estiva, e vediamo un po' come va. Ok, e abitate tutte e tre qui a Dormea? Io a Dormea. Sì. Io a Torino. Ok. Io abito in un paese qua vicino, Cosio d'Arroscia. Ah, ok, Cosio d'Arroscia. Lo conosciamo bene. Sì, ah, ok, bene, bene. Sì, sì, sì, sì. Bene, e volete raccontarci come vedete da oggi in poi Ormea? Chi comincia? Allora, innanzitutto Ormea è un bellissimo paesino di città in montagna, e quindi per fortuna c'è tanto turismo, siamo molto contenti di questo, e in questa stagione estiva per fortuna ci sono tante persone, quindi cerchiamo comunque di attirare l'attenzione anche magari con le persone che ci sono qui. E il futuro qui ad Ormea mi auguro che sia sempre come adesso, insomma, e ci sia più, come dire, lavoro, magari in modo che le persone non vadano via, ma che comunque rimangano nei paesini piccoli come Ormea, perché comunque è un bel posto dove vivere anche, quindi insomma io sono qui da diversi anni e niente ha dato nelle città, però comunque Ormea ha un po' di tutto, quindi... È stato un caso che tu sia arrivata qui oppure c'è stato un dopo percorso? Una serie di cose con i miei genitori, scelto, quindi avete fine, scelto. Sì. Sì, ad esempio io arrivando da Torino, sono ormai 12 anni che frequento Ormea e mi rendo conto che c'è anche spazio per i giovani, comunque ci sono anche delle realtà in cui una persona sceglie della città di spostarsi qua a Ormea e zone limitrofe. Diciamo che bisognerebbe un attimino incentivare un po' di più, però c'è volontà. Un suggerimento che ti viene in mente? E anziché venire a Ormea come base e poi magari muoversi nelle altre cittadine per sagre e eventi, portare a Ormea sagre e eventi proprio tra le vie di Ormea, visto che è un paesino anche storicamente molto bello, molto curato, e si vede che la gente ha cura della propria cittadina, sarebbe proprio importante anche venendo da fuori vedere proprio che vogliono valorizzare la loro cittadina. Come turista mi piace venire a Ormea, però poi appunto magari devo prendere la macchina e andare in un'altra parte per una festa, una sagra, un evento. Sarebbe bello venire a Ormea per vivere Ormea in quel senso. Ok. C'è una domanda. C'è un posto dove per esempio fate musica dal vivo? C'è una banda di Ormea? Com'è la situazione musicale qua? Penso ci sia una banda, conosco dei ragazzi che sono... Il corpo bandistico dell'Alta Valtana, ma non è di Ormea, è generico, tutta la banda. Quindi ogni tanto fanno dei concerti in zona, anche fuori. Ma chi è che suona dei ragazzi dell'età vostra? Anche musica che piace nomi. A voi, insomma, non soltanto musica tradizionale. No, quello forse che musica manca. Piace? Forse quello che è forse quello che un po' manca è un po' magari anche non la voglia, perché sono sicura che la voglia ci sia, ma magari l'opportunità di potersi esprimere anche appunto per i giovani, se uno vuole suonare, esibirsi, secondo me manca proprio l'opportunità. Ma c'è un posto, un club, un bar? Alla società operaia, fanno magari la società operaia? Sì, diciamo che fanno un po' di tutto lì, si ritrovano per giocare, per fare degli spettacoli, per... fare delle serate danzanti, è un luogo di ritrovo. Di ritrovo anche, sì, per... Anche perché è grande, può ospitare parecchie gente. Io punterei su quello, forse. Poi ci sono le singole attività che fanno delle feste ogni tanto, dei incontri particolari. Però sì, che suonano proprio a livello di banda, c'è solo il corpo bandistico. E non c'è un gruppo, che ne so, ska? Quello non ne so. Chi è molto il punk del paese? Bella domanda. Bella domanda. Io ora dato. non esiste. Altre persone verso Gariestio che suonano delle bande singole. Ok, però un po' qualcuno che fa musica c'è. Sì, sì, no, sì, chiedevo sì, perché in radio stiamo cercando di trovare un po' di musica locale da far sentire in radio. E quindi se avete qualche esempio di musicista locale lo mandiamo. No, no, ma vi dico, secondo me potenzialmente c'è tanta gente, tanti giovani, cioè la voglia c'è e secondo me avessero l'opportunità e un luogo farebbero molto di più. Quindi... Noi nel nostro piccolo abbiamo questa mattina, domani pomeriggio faremo un gioco. Siete invitati a partecipare, è un gioco da tavolo, semplice, tranquillo, che si fa, in cui cercheremo di giocare l'economia e l'immaginario di Ormea nel 2040, quindi vi aspettiamo, vi aspettiamo, perché voi nel 2040 ci siete. Quindi, si spera, ma penso di sì. Corna facendo, tutti gli scongiuri per caso. Bene, bene. Ci contiamo di vedervi domani e se avete amici o genitori, insomma, in Italia, famiglia. Intanto abbiamo tre tavoli, sì. Insomma, la gente c'è può alzare e può andare tutti. Via, non c'è, vabbè, bisogna stare tre ore. Penso che saremo in ufficio, però sicuramente facciamo... Sì, dalle 4 alle 7, l'idea è un po' così, sì, quindi... Potrei anche mandare una rappresentante dell'ufficio turistico che gioca per l'ufficio turistico e poi vi fate la staffetta. No? Sì, anche una cosa così. Bene, grazie mille ragazzi. Grazie, grazie. Diamo la linea a domani, insomma, ci vedrete qui anche oggi più tardi. Che metterà un po' di musica in attesa di trovare musica locale. Diamo la linea a Francesco.